GR24, il sole 24 ore. Attacco ai militari italiani in Afghanistan, 2 militari feriti. Caso Ruby interviene il Quirinale, nessuna telefonata con Berlusconi e Napolitano chiede chiarezza al più presto di fronte al turbamento dell'opinione pubblica. Nuove manifestazioni disperse dalla polizia a Tunisi per il capo del governo nel paese comandava la moglie di Ben Ali. Ancora rialzi dei carburanti al sud e la benzina sfonda quota 1,53. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini, una notizia arrivata da poco. 2 militari italiani sono stati feriti in uno scontro a fuoco avvenuto oggi in Afghanistan e la notizia arriva da fonti militari, non si hanno al momento altri particolari, quindi non sappiamo di preciso le condizioni dei 2 soldati feriti. Naturalmente vi aggiorneremo nel corso dell'edizione di GR24. In primo piano naturalmente l'inchiesta che vede imputato tra gli altri Silvio Berlusconi per concussione e prostituzione minorile. Questa mattina è intervenuto il Quirinale, allora iniziamo dalle parole del capo dello Stato affidate ad una nota in diretta da Roma, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, non poteva essere altrimenti, il capo dello Stato segue con attenzione le vicende giudiziarie che riguardano il Presidente del Consiglio. In un comunicato diffuso questa mattina il Quirinale smentisce come prima cosa che ci sia stata una telefonata tra Silvio Berlusconi e Giorgio Napolitano. Il Colle si dice quindi ben consapevole del turbamento dell'opinione pubblica dinanzi alla contestazione di gravi ipotesi di reato e dinanzi alla divulgazione di numerosi elementi riferiti ai relativi atti di indagine. La nota spiega poi che senza interferire nelle valutazioni e nelle scelte politiche che possono essere compiute dal Presidente del Consiglio, dal Governo e dalle forze parlamentari, il Presidente della Repubblica Napolitano auspica che nelle previste sedi giudiziarie si proceda al più presto ad una compiuta verifica delle risultanze negative. Da segnalare infine l'invito a fare chiarezza che arriva questa mattina dal quotidiano dei Vescovi, a venire in voca sobrietà per coloro che operano nella sfera pubblica. E da Roma è tutto, linea allo studio. A proposito dell'attacco di cui abbiamo parlato poco fa, c'è una nota del ministro La Russa che dice le condizioni di uno dei 2 militari feriti in Afghanistan sono disperate, la sua vita è appesa ad un filo, lo ha detto appunto il ministro della difesa Ignazio La Russa. L'altro ferito invece non è in pericolo di vita. E sempre sul caso Ruby, naturalmente il dibattito politico si è infiammato, sempre in diretta da Roma, le ultime novità con Elisabetta Fiorito. Nella maggioranza prevale la difesa del Premier, per il ministro degli Esteri Franco Frattini il caso Ruby è tutta una montatura che non impedirà al governo di andare avanti, come sta assicurando il Premier Silvio Berlusconi. Anche il sindaco di Milano Letizia Moratti esprime totale disappunto per la campagna diffamatoria anti-Berlusconi. Un po' distaccato invece il parere del presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni, quello che sta avvenendo a galla non è confortante ma va rispettata la privacy di tutti. Per la Lega è importante andare avanti con il federalismo, l'opposizione invece si ricompatta sulle dimissioni, il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani chiede che il Presidente del Consiglio si dimetta, il mondo ci guarda e Berlusconi si ritiri a vita privata visto che ce l'ha così intensa. Il Parlamento sfiducia Berlusconi, tuona Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori, da parte di Future Libertà Benedetto della Vedova spiega bisogna dare l'addio al PDL come Partito dei Valori. Infine il gruppo di responsabilità nazionale continua a sostenere il governo e dal gruppo sono fiduciosi di poter costituire un gruppo alla Camera dove sono necessari 20 deputati. Per il momento qui da Montecitorio è tutto per studio. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito, adesso ci spostiamo al Palazzo di Giustizia di Milano perché nuovi particolari emergono dalle carte dell'inchiesta in diretta Raffaella Calandra. Prima usa un paragone cinematografico. Ho vissuto la serata come fossi al bagaglino più che nel film Eyes Wide Shut. Poi all'amica in modo esplicito dice è un puttanaio, a me lui è scaduto tantissimo. Parlano al telefono le 2 amiche di Nicole Minetti, la consigliera regionale, dopo la serata vissuta da una di queste ad Arcore, dopo essere stata briffata, per dirla con la parola esatta, il neologismo usato dalla Minetti, dalla consigliera filiera regionale sulla varia umanità che lei stessa avrebbe trovato in quelle feste. Zoccole, gente delle favelas, gente che pensa che questa sia la sua occasione della vita, ma anche gente normale, elenca. Insieme alle ricostruzioni delle varie serate ci sono nelle 389 pagine dell'invito a comparire notificato al Premier le indicazioni sui guadagni delle ragazze a queste feste. C'è chi dice di aver ricevuto 2.000, chi dice 5 in due parti, chi sa che sono state date anche 7.000 euro e chi riferisce dei bracciali preziosi. Più volte alcune ragazze sono rimaste a dormire nella villa di Arcore, tutte e sette stasera, dice Laminetti al telefono. Talvolta c'è chi si lamenta del fatto che le feste dovrebbero diminuire e chi si lamenta ancora della miseria che riceve e al telefono dice dobbiamo cominciare a rubargli in casa. C'è poi la ragazza che vuole portare un messaggio da un movimento della Calabria dove va all'università che vuole unirsi al PDL. C'è di tutto, ci sono tante conversazioni, ci sono poi le conversazioni di Emilio Fede che parla ancora del fiduciario della Fininvest Spinelli e ci sono poi le organizzazioni delle serate tra la Minetti e Lele Mora. Queste riguardano la seconda parte di queste lunghi di questi atti che sono stati notificati al Premier, perché la prima, tra le 33 fonti di prova elencate dalla Procura, è tutta dedicata alla ricostruzione degli avvenimenti nella notte in cui Ruby fu fermata in questura. Questo riguarda le prime 80 pagine di questo invito a comparire che continueremo a raccontarvi nelle varie edizioni di GR24. È tutto. Bene, grazie Raffaella. Sono le 13:07 minuti. Questo dunque il quadro politico e giudiziario di questa vicenda. Adesso facciamo il punto con Stefano Folli in diretta. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Quale scenario, o forse meglio dire quali scenari possiamo attenderci per le prossime ore, per i prossimi giorni? C'è chi dice che questo potrebbe essere l'ultimo atto effettivo di Silvio Berlusconi. Stefano. Che la stagione di Berlusconi si stia chiudendo mi sembra abbastanza evidente. Come si chiude attraverso quali tempi è ancora difficile dirlo. Io penso che lo scenario peggiore sia immaginare delle elezioni anticipate fatte in una sorta di resa dei conti finale tra il governo e la magistratura. Sarebbe qualcosa che francamente il Paese non può augurarsi. D'altra parte penso anche che una stagione così lunga e importante come i 17 anni di Berlusconi sulla scena non possano chiudersi per via giudiziaria, debbano chiudersi per via politica, cioè bisogna comunque immaginare un passaggio elettorale che, come dire, rilegittimi la classe dirigente politica e questo avverrà quando in qualche modo si sarà chiusa la stagione di Berlusconi, cioè immagino che si possa immaginare che sia lo stesso Berlusconi a guidare di nuovo il centrodestra nella campagna elettorale prossima avventura. Io credo che il personaggio chiave sia Bossi. Bossi potrà determinare quali sviluppi avremo, se una cosa o l'altra. Immagino che lui voglia preservare l'alleanza tra la Lega e il PDL, voglia preservare un centrodestra che i sondaggi dicono essere in maggioranza nel paese, ma voglia evitare di finire in questo grande frullatore finale in cui sta precipitando la stagione di Berlusconi. Tu vedi da qui alle elezioni un eventuale governo del presidente? Ma è difficile dirlo oggi, francamente. Penso che il Presidente della Repubblica avrà un grande ruolo in questa fase. La nota di oggi in cui esprime turbamento per quello che sta accadendo nel paese e smentisce la telefonata con Berlusconi di ieri è significativa. Credo che Napolitano sia consapevole di dover giocare nei prossimi tempi un ruolo di equilibrio molto delicato. Bene, grazie a Stefano Folli, buon lavoro e buona giornata. Sono le 13:09 minuti, adesso rimaniamo a Roma ma cambiamo argomento, proseguiamo questa edizione di GR24. Vi do solamente un aggiornamento, vengono confermate naturalmente le parole ma soprattutto le notizie che ci ha dato il ministro La Russa tramite l'agenzia ANSA che dice le condizioni di uno dei due militari feriti in Afghanistan sono disperate. Tra poco speriamo di avere maggiori dettagli. Dicevo, rimaniamo a Roma. La Commissione Agricoltura della Camera dovrebbe approvare nel pomeriggio la legge sull'etichettatura che prevede l'obbligo di indicare il luogo di origine dei prodotti alimentari commercializzati in Italia. Per festeggiare, migliaia di agricoltori della Coldiretti arriveranno oggi in piazza Montecitorio e offriranno una salsicciata record, una salsiccia di 100 metri realizzata con carne italiana. Slitta invece al 26 gennaio il voto della bicamerale per il federalismo fiscale. Tempi più lunghi, ma un accordo più vicino per il federalismo fiscale per i comuni, uno dei nodi che stanno più a cuore al Carroccio. Questo almeno quanto emergerebbe dalla commissione bicamerale che attendeva oggi le modifiche annunciate dal ministro Roberto Calderoli. Modifiche che slittano a domani, nel primo pomeriggio. Solo allora sarà pronto il nuovo testo che fa capo al relatore Enrico La Loggia e che dovrebbe recepire alcune delle richieste dei comuni. In settimana, probabilmente giovedì, si dovrebbe tenere anche un nuovo incontro tra il presidente dell'ANCIS, Sergio Chiamparino, La Loggia e il ministro Calderoli. Sarebbero confermate le modifiche al decreto già anticipate, in particolare quella sulla cedola secca sugli affitti, con doppia aliquota al 23% sui canoni liberi, di cui il 3% destinato al mini quoziente familiare e al 20% su quelli concordati. Modifiche che, è l'obiettivo di Calderoli, potrebbero determinare l'astensione almeno di una parte delle opposizioni, il che consentirebbe il via libera al decreto. In bicamerale, infatti, la maggioranza ha solo 14 voti su 30 componenti. Per trattare c'è ancora qualche giorno. È slittato anche il voto finale, fissato ora per il 26 gennaio. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo il sì al referendum di Mirafiori, Sergio Marchionne ribadisce: l'accordo non si tocca, anzi verrà esteso anche a Melfi e Cassino. E lancia la sfida per la nuova Fiat, salari ai livelli tedeschi e francesi e azioni agli operai. Voglio arrivare alla partecipazione dei lavoratori agli utili, dice l'amministratore delegato di Fiat in un'intervista, ma prima di parteciparli dobbiamo farli, parlando naturalmente degli utili. E la conferma del modello tedesco, spiega Carlo Della Ringa, docente di economia politica all'Università Cattolica di Milano. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Certamente la prospettiva di aumentare la produttività attraverso nuovi impianti e nuovi modelli e una nuova organizzazione del lavoro all'interno dell'impresa è la vera sfida di Marchionne. Se riuscirà, non c'è dubbio che di questo potranno avvantaggiarsi anche i lavoratori con aumenti delle retribuzioni. L'idea di coinvolgere maggiormente i lavoratori negli utili è un'idea che conferma l'intenzione di Marchionne di seguire quello che può essere definito almeno in parte il modello tedesco, cioè il modello di quelle imprese tedesche che sono uscite dal sistema di relazioni industriali di carattere nazionale, quelle dei contratti collettivi nazionali, e a questo punto queste imprese in Germania hanno relazioni dirette con i loro lavoratori. Certamente il grado di partecipazione di questi lavoratori ai profitti e alla strategia delle imprese molto forte in Germania. Si tratta di vedere se anche Marchion è disposto a concedere quello che c'è a favore dei lavoratori in Germania. La seconda parte di GR24, al microfono per questa edizione Enrico Pagliarini. Adesso riprendiamo con alcune buone notizie che arrivano dai mercati finanziari. Saluto Deborah Rosciani. Sono buone, mi pare, Deborah. Sono buone, sì, perché questa mattina il mercato azionario è particolarmente galvanizzato da notizie che arrivano sul fronte del mercato obbligazionario. Cosa è successo? Oggi nuovo test del mercato dei bond governativi per quello che riguarda la Grecia e la Spagna. Le notizie sono buone perché la Grecia è riuscita a collocare titoli di Stato a 13 settimane per 650 milioni di euro con un rendimento del 4,1%, quindi un buon riscontro del mercato a dispetto della decisione di Fitch di venerdì scorso di declassare a spazzatura i titoli del debito di Atene. Buona notizia anche dalla Spagna, forse addirittura migliore, che ha collocato con successo titoli di Stato a 12 e 18 mesi per un totale di 5 miliardi e mezzo di euro, riuscendo a strappare rendimenti più bassi di come non andassero appunto di recente. La prima volta da ottobre, ossia da ai tempi del salvataggio dell'Irlanda, che per i titoli di Madrid si registra un calo dei tassi, segno di tentativo di normalizzazione sul mercato obbligazionario generale. C'è però da ricordare che a sostenere il mercato delle obbligazioni governative ci sono anche le misure intraprese dalla Banca Centrale Europea, che sta facendo man bassa appunto di titoli sul mercato secondario. Tutto questo, dicevo, insieme all'indice ZEV di fiducia degli investitori tedeschi, che è risultato nettamente migliore delle attese, sta propagandosi bene in borsa, perché tutti gli indici del vecchio continente sono in rialzo di oltre un punto percentuale e l'euro ha riagganciato quota 1,34 sul dollaro. Enrico. Grazie Deborah, buon lavoro. Adesso altre notizie sempre sul fronte dei mercati, non quelli azionari. Parliamo dei prezzi dei carburanti e non sono buone notizie. Nel mezzogiorno la benzina supera quota 1,53 euro al litro, avvicinandosi al record segnato nel 2008 di 1,56. A livello medio nazionale il prezzo supera invece quota 1,51. Rialzi inspiegabili e del tutto ingiustificati, secondo Federconsumatori e Adusbef, che in una nota attaccano il governo definendolo inerte. Oltre alla filiera petrolifera, secondo i consumatori, infatti, a guadagnare con i rincari sarebbe l'esecutivo grazie alla tassazione di benzina e diesel. Senza efficaci ed urgenti misure di contrasto, saranno inevitabili anche gli effetti sui prezzi dei prodotti alimentari, determinando un ulteriore aggravio di spesa per le famiglie italiane. È l'allarme lanciato dal Codacons. L'Agenzia Internazionale dell'Energia mette invece in guardia sull'impatto che l'aumento delle quotazioni del greggio potrà avere direttamente sulla ripresa economica mondiale. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora andiamo all'estero, in Tunisia. Centinaia di persone si sono nuovamente radunate oggi nel centro di Tunisi. Per fare il punto della situazione ci colleghiamo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Dunque, allora, qual è la situazione? Ci siamo lasciati poco più di un'ora fa con te che stavi assistendo ad una nuova manifestazione, se non sbaglio. Sì, ma qui la situazione stanno cambiando di ora in ora, si può dire di minuto in minuto, si stanno accavallando tensioni, emozioni, annunci, e anche il nuovo governo di unità nazionale, che è stato appena varato ieri, sta già perdendo i pezzi con le dimissioni di tre ministri. I sindacati infatti hanno ritirato la loro fiducia al governo, giudicando negativamente il mantenimento di molti esponenti del regime, del vecchio regime, nei posti chiave. Ancora qui a Tunisi, in Avenue Bourguiba, proprio in questo momento ci sono manifestazioni, i poliziotti sono schierati, gli elicotteri stanno sorvolando il centro della capitale. Insomma, manifestazioni in tutto il paese contro il governo e soprattutto contro il vecchio regime. La piazza, dopo aver spazzato via Ben Ali, vuol farla finita anche con il benalismo, cioè con il vecchio regime. A proposito di Ben Ali, una figura centrale nelle ultime vicende della Tunisia è la moglie, Leila Trabelsi, di cui tu hai scritto oggi sul Sole 24 Ore. Per il capo del governo attuale era lei che in realtà comandava nel paese. Beh, mi sembra proprio che Gannucci, il primo ministro, confermi insomma quello che scrivevo oggi. Non solo comandava, come dice Gannucci, ma io nell'articolo di oggi cerco di mettere in luce quello che è stata un po' la congiura di palazzo che c'è stato negli ultimi mesi qui in Tunisia. Cioè Leila Trabelsi in realtà voleva occupare il posto di Presidente della Repubblica al posto del marito, un uomo di 75 anni, indebolito, con una salute malferma, e a questo punto ha cercato di sostituirle. E dopo tanti anni lei è riuscita a stendere una rete su tutto il paese, controllando la polizia e i servizi segreti. Lei stessa era stata un doppio agente dei servizi durante gli anni 80, quindi con questo network tentava in qualche modo di emarginare il marito dal posto di potere. Grazie ad Alberto Negri, che naturalmente sentiremo anche nel pomeriggio e in serata nelle prossime edizioni di GR24 per aggiornarci sulla situazione, come avete sentito, in evoluzione in Tunisia. In Iraq, di circa 50 morti e molte decine di feriti, il bilancio dell'attentato suicida di questa mattina nella città irachena di Tikrit. Secondo le prime indicazioni, gran parte delle vittime sono reclute di polizia che si erano radunate sin dal primo mattino davanti al centro reclutamento della città, la città natale del defunto ex presidente Saddam Hussein, a circa 160 km a nord di Baghdad. Nonostante gli sforzi internazionali, nel 2010 gli ostaggi sequestrati dai pirati, soprattutto somali, nel mare, hanno raggiunto il numero record di 1181. Secondo i dati dell'Ufficio Marittimo Internazionale, lo scorso anno sono state catturate 53 navi. 28 di queste alla fine di dicembre erano ancora nelle mani dei pirati, che trattengono attualmente 638 ostaggi. Torniamo in Italia. 35 dipendenti di Rifondazione Comunista sono dal 2009 in cassa integrazione a zero ore e denunciano la mancanza di dialogo con il partito. Rifondazione si schiera giustamente contro Marchionne, ma poi alza un muro contro i suoi stessi dipendenti. Ad accusare il partito di Paolo Ferrero di predicare bene e razzolare male sono alcune delle persone che in quel partito lavorano, 35 tra tecnici, segretari, informatici e centralinisti, che dal settembre 2009 sono in cassa integrazione a zero ore. La storia dei precari del PRC incomincia nella primavera del 2008, da quando cioè il 3% raccolto alle elezioni dall'arcobaleno costringe il partito a ridimensionare drasticamente il personale. I lavoratori in cassa integrazione, una settantina, vengono divisi tra 50% e a zero ore. La scelta, denuncia Paola Doricchi, una delle portavoci dell'Assemblea dei Cassi Integrati a zero ore, viene fatta sulla base dell'appartenenza alle correnti. Non sono stati presi in considerazione minimamente l'anzianità di servizio, lo stato di famiglia, carichi familiari, nemmeno lo stato di salute. Questo in un partito si può fare. Ci aspettavamo che ci fosse però un impegno da parte loro per cercare di equilibrare la situazione. Tra qualche giorno i precari di Rifondazione si troveranno faccia a faccia con la dirigenza per firmare alla Regione Lazio il rinnovo dei sussidi. In un'assemblea sindacale, in un documento, hanno denunciato l'assenza fin qui di dialogo. Vittime della storia politica italiana, si dirà, ma loro non ci stanno. Decisioni politiche o amministrative che in questi anni sono state fatte dai partiti, alla fine, come capita anche nelle aziende, e mi dispiace che loro questa la ritengano un'offesa, ma è così, vengono pagate dai lavoratori per primi. Jacopo Matano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo alcuni aggiornamenti. Il primo riguarda il militare di cui abbiamo parlato all'inizio dell'edizione di GR24, che è morto. La notizia viene diffusa adesso da un'agenzia APCOM. Morto il militare italiano ferito in Afghanistan. Sono due i soldati coinvolti in questo attacco. L'altro, secondo le parole del ministro della difesa, non è in pericolo di vita. Documentazione cartacea definita interessante dagli investigatori è stata sequestrata ieri dai carabinieri nella cella di Michele Misseri in carcere con la figlia Sabrina, perché accusato dell'omicidio di Sara Scazzi. L'operazione è stata disposta dalla Procura della Repubblica di Taranto nell'ambito di accertamenti disposti dopo che l'agricoltore di Avetrana, prima dello scorso Natale, aveva inviato lettere alle figlie nelle quali chiede scusa per aver accusato Sabrina pur sapendola innocente. Secondo l'ipotesi riportata da alcuni giornali, gli inquirenti starebbero valutando la possibilità che qualcuno possa aver indotto Misseri a scrivere le missive nelle quali vengono fatte affermazioni in contrasto con le dichiarazioni rese nell'incidente probatorio del 19 novembre ritenute veritiere. Sei persone sono state arrestate dalla squadra mobile di Modena per avere messo a segno almeno 4 rapine in banca. Si tratta di una banda di siciliani che partiva con regolarità dal sud Italia per rapinare istituti in Emilia e Veneto. Si concludono oggi le sfilate della moda maschile a Milano, un'occasione per fare anche il punto sull'andamento del mercato. Eleonora Micheli ne ha parlato con Massimo Ferretti, presidente di AF, la società quotata in borsa che controlla i marchi Moschino, Alberta Ferretti e Pollini. Le collezioni della primavera-estate sono arrivate adesso in boutique e stanno performando decisamente bene. Oggi ci troviamo invece in un'altra campagna vendita altrettanto importante, che è quella dell'autunno-inverno 2011. I risultati iniziali sono molto confortanti e la nostra idea è quella di poter ripetere l'exploit delle collezioni della primavera-estate 2011. Ma le vendite nel periodo natalizio sono andate abbastanza bene, non siamo sui valori antecedenti alla crisi, non siamo certo ai valori del 2007, però sono valori e numeri importanti che danno una sensazione precisa, è quella cioè che ci si stia avviando verso un momento nuovamente positivo. Mi chiedeva del 2010, come anno rimane un anno ancora difficile, il nostro anno di svolta sicuramente è il 2011. È tutto per questa edizione di GR24, sono le 13:27, grazie in regia Pietro Lacorte. Edizione curata e condotta da Enrico Pagliarini, che assieme alla redazione vi auguro una buona giornata, alla prossima edizione alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.